ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Piove tutto sabato e tutta domenica. Anche per questa ragione, forse, scordai la promessa di Fadigati. Non mi telefonò e nemmeno io gli telefonai. Ma per pura dimenticanza, ripeto, non già di proposito. Pioveva senza un attimo di tregua. Dalla mia camera, attraverso la finestra, guardavo gli alberi del giardino, il pioppo, i due olmi, il castagno, a cui l'acqua torrenziale veniva staccando le ultime foglie. Soltanto il grande abete al centro, più nero e barbuto che mai, straordinariamente gocciolante, sembrava godere di tanta umidità. Domenica mattina, rammento, diedi ripetizione di latino a Fanny. Aveva già ripreso la scuola, ma stentava con la sintassi. Mi fece vedere una traduzione dall'italiano piena zeppa di errori. Non capiva e mi infuriai. «Sei una cretina!» urlavo. Fanny scoppiò in lacrime. La pelle del suo viso, scomparsa la bronzatura del mare, si era rifatta pallida, quasi diafana, tanto da lasciar trasparire alle tempie il blu delle vene. I capelli lisci le spiovevano senza grazia sulle spallucce sussultanti. Allora la abbracciai e baciai. «Si può sapere perché piangi», le dicevo, e le promisi che dopo pranzo l'avrei condotta al cinema. Uscii solo, invece. Entrai all'Excelsior. «Galleria?» chiese dall'alto del suo pulpito la cassiera che mi conosceva. Era una donna di età indefinibile, bruna, riccioluta, formosa, molto incipriata e dipinta. Da quanti mai anni stava là? Pigramente occhieggiante di sotto le palpebre pesanti, grottesco idolo borghese. L'avevo vista sempre, fin da quando, bambini, la mamma ci mandava al cinema con la donna di servizio. Andavamo ogni mercoledì pomeriggio, ricordavo, perché giovedì non c'era scuola, e salivamo ogni volta in galleria, naturalmente. Ed ecco la mano grassa, bianca, dalle unghie laccate, che mi offriva il biglietto. C'era qualcosa di molto sicuro, quasi imperioso, nella placidità di quel gesto. «No, mi dia un posto di platea», dissi seccamente, non senza però dover vincere un imprevedibile senso di vergogna. E in quell'attimo, di colpo, mi tornò in mente Fadigati. Porsi il biglietto alla maschera, penetrai nella sala e, nonostante la folla, trovai subito posto. Una strana inquietudine mi distraeva continuamente dal film. Varie volte, attraverso il fumo e il buio, credetti a torto di scorgerlo, con la sua lobbia, il suo pastrano, le sue lenti scintillanti. Durante gli intervalli guardavo in giro, nelle file di scanni dove più folte spiccavano le divise grigio-verdi o nei corridoi di fianco, accanto ai pesanti tendaggi delle porte d'ingresso. Ma invano. Non si trattava di lui. Lui non c'era. E non era neppure lassù, in galleria, tantomeno, stipata fino al soffitto da giovanotti reduci dalla partita di calcio, da signore e signorine in cappello e pelliccia, da ufficiali dell'esercito e della milizia, da signori d'età e di mezza età, proprietari agricoli, professionisti, bottegai, eccetera, sonnecchianti in attesa di concludere la giornata festiva, prima a cena e poi al circolo. Non c'era, no. Ma perché avrebbe dovuto esserci, mi dicevo, tentando di rassicurarmi. A Ferrara, dopo tutto, esistevano altri tre cinema. E d'altronde, nei cinema, non era sempre stato di sera, dopo cena, che lui preferiva andarci? Quando uscii, verso le 7:30, non pioveva più. La coltre di nubi, lacerata a strappi, lasciava scorgere il cielo stellato. Un vento teso e caldo aveva rapidamente asciugato i marciapiedi. Traversai il listone e presi per via Bersaglieri del Po. Dall'angolo di Gorgadello detti un'occhiata alla sua casa. Tutto chiuso, tutto spento. Provai allora a telefonare dal vicino posto pubblico della Timo in via Cairoli, ma niente, silenzio, nessuna risposta. Ritentai la sera da casa e il mattino seguente, di nuovo dalla cabina della Timo, sempre con l'identico risultato. Sarà partito, mi dissi da ultimo. Quando tornerà, sarà certo lui a farsi vivo. Diretto a casa, scendevo ora per via Savonarola, nella quiete soleggiata dell'una dopo mezzodì. Poche persone, sparse lungo i marciapiedi. Dalle finestre aperte uscivano le musichette delle radio e sentori di buona cucina. Io guardavo in alto al cielo azzurro, perfetto, contro cui si incidevano duramente i profili dei cornicioni e delle grondaie. Ancora umidi di pioggia, i tetti intorno al piazzale della chiesa di San Girolamo apparivano più bruni che rossi, quasi neri. Proprio davanti all'ingresso della maternità mi imbattei in Cenzo, il giornalaio. «Come va le stenze quest'anno?» gli chiesi, fermandomi a comperare il Corriere Ferrarese. «Ce la facciamo a passare in B, Cenzo?» Sospettoso, forse, che lo prendessi in giro, mi dette un'occhiata di traverso, piegò il giornale, me lo porse col resto e se ne andò, urlando a squarciagola i titoli. «Clamorosa sconfitta del Bologna a Torino! L'Estense esce imbattuta dal terreno di Carpi!» Infilavo la chiave nella serratura del portone di casa e udivo ancora la sua voce lontana echeggiare per le vie deserte. Di sopra trovai la mamma tutta allegra. Mio fratello Ernesto aveva telegrafato da Parigi avvertendo che sarebbe rientrato in Italia la sera stessa. Si sarebbe fermato a Milano mezza giornata, quella di domani. Contava comunque di essere a Ferrara per ora di cena. «E il papà? L'ha saputo?» chiesi, leggermente urtato dalle sue lacrime di gioia, abbassando gli occhi sul foglio giallo del telegramma. «No, è uscito alle 10. Doveva andare prima in comunità, poi in banca, e il telegramma è arrivato verso mezzogiorno. Chissà come sarà contento. Questa notte non riusciva ad addormentarsi. Diceva continuamente, almeno Ernesto fosse a casa anche lui. Ha telefonato nessuno per me? No. O meglio, sì, aspetta. Contrasse il viso nello sforzo di ricordare e intanto guardava a destra e a sinistra, come se il nome della persona che aveva telefonato avesse potuto leggerlo scritto sul pavimento o sulle pareti. «Ah, sì, Nino Bottecchiari», disse alla fine. «E nessun altro?» «No, Nino si è molto raccomandato che tu gli telefoni. Perché non lo cerchi qualche volta? Mi sembra un buon amico». Ci mettemmo a tavola noi due soli. Fanny non c'era, era stata invitata a pranzo da una compagna di scuola. Mia madre parlava di Ernesto. Già cominciava a preoccuparsi. Si sarebbe iscritto a legge o a medicina o a ingegneria. In ogni caso l'inglese, che ormai doveva conoscere alla perfezione, gli sarebbe tornato utilissimo negli studi e nella vita. «Dovrà tenersi in esercizio, però», obiettai, «semplicemente per angustiarla, forse, e quindi, con un abbraccio, ridarle la serenità». Mio padre tardò più del solito quel giorno. Quando arrivò, eravamo già alla frutta. «Grandi notizie!» esclamò spalancando la porta del tinello e si lasciò cadere di peso sulla sua sedia con un «ah» di soddisfazione. Era stanco, pallido, ma raggiante. Guardò verso la porta di cucina per sincerarsi che Elisa, la cuoca, non stesse entrando in quel momento con gli spaghetti, quindi, sbarrando per l'eccitazione gli occhi azzurri, si allungò tutto sul tavolo con l'evidente proposito di vuotare il sacco. Non ci riuscì. Mia madre fu pronta a mettergli sotto il naso il telegramma spiegato. «Anche noi abbiamo delle notizie importanti», disse e sorrideva orgogliosa. «Che cosa ne dici?» «Ah, è di Ernesto», fece lui, distratto. «Quando arriva?» «Si è deciso, finalmente». «Come quando arriva?» gridò mia madre offesa. «Non hai letto? Domani sera, no?» Gli strappò di mano il telegramma. Imbronciata come una bambina che fa i capricci, cominciò a ripiegarlo con cura. «Non sembra neanche che si tratti di tuo figlio», brontolava a occhi bassi, riponendo il telegramma nella tasca del grembiule. Mio padre si volse verso di me. Pieno di rabbia, invocava la mia testimonianza e il mio soccorso. ma io tacevo. C'era qualcosa che mi impediva di intervenire, di conciliare quel piccolo bisticcio infantile. «Su, sentiamo», accondiscese infine mia madre, ma con l'aria di fare un piacere, soprattutto a me. Le novità che mio padre aveva da comunicarci erano le seguenti. Mezz'ora prima, al Credito Italiano, gli era capitato di incontrare per caso l'avvocato Geremia Tabet, il quale, come noi ben sapevamo, non soltanto era sempre stato dentro alle segrete cose della casa del fascio di Ferrara, ma notoriamente godeva anche dell'amicizia e della stima di Sua Eccellenza Bocchini, il capo della polizia. Uscendo assieme dal Credito, Tabet aveva preso sotto braccio mio padre. Di recente era stato a Roma per affari, gli aveva confidato, occasione questa che gli aveva dato modo di mettere un momento il naso di là dalla soglia del Viminale. Dati i tempi e le circostanze, pensava che il segretario particolare di Sua Eccellenza non lo avrebbe nemmeno annunciato. Invece no. Il prefetto dottor Corazza lo aveva subito introdotto nella gran sala dove il padrone lavorava. «Caro avvocato!» aveva esclamato Bocchini, scorgendolo entrare. Si era alzato, gli era venuto incontro a metà del salone, gli aveva stretto calorosamente la mano, lo aveva fatto accomodare in una poltrona. Dopodiché aveva portato senz'altro il discorso sulla questione delle ventilate leggi razziali. «Conservi pure la sua bella calma, Tabet», così si era espresso, «e induca alla tranquillità e alla fiducia, la prego, il maggior numero possibile di suoi correligionari. In Italia sono autorizzato a garantirglielo, una legislazione sulla razza non sarà mai varata. I giornali parlavano tuttora male degli israeliti», aveva continuato Bocchini, «ma unicamente per ragioni superiori. Per ragioni di politica estera. E bisognava capire, in quegli ultimi mesi il Duce era venuto a trovarsi nella necessità imprescindibile di far credere alle democrazie occidentali che l'Italia fosse ormai legata a filo doppio con la Germania. Quale argomento avrebbe potuto trovare perciò più persuasivo di un po' di antisemitismo? Sarebbe bastato un contrordine dello stesso Duce, comunque, perché tutti i cani da pagliaio tipo Interlandi e Preziosi, il capo della polizia mostrava per costoro un sommo disprezzo, smettessero da un momento all'altro di abbaiare. «Speriamo bene», sospirò la mamma, che già pendeva dalle labbra di mio padre. «Speriamo che si decida a darlo presto, questo benedetto contrordine». Entrò l'Elisa, reggendo il piatto ovale della pasta asciutta, e mio padre tacque. Io scostai la seggiola, mi alzai, andando a sedermi nella poltroncina di Vimini accanto alla radio. Per quale ragione non partecipavo alle speranze dei miei? Che cosa c'era che non mi andava nel loro entusiasmo? «Dio, Dio!» dicevo fra me, serrando i denti. «Appena l'Elisa sarà uscita da questa stanza, sento che il papà ricomincerà a parlare». Ero disperato, assolutamente disperato. E non tanto perché dubitassi che Bocchini avesse mentito. Quello che il capo della polizia aveva detto all'avvocato Tabet poteva benissimo essere vero, dopo tutto. Quanto piuttosto a vedere mio padre subito così felice, o meglio, così smanioso, di tornare felice. Dunque era proprio questo che non sopportavo, mi chiedevo, che lui fosse contento, che il futuro gli sorridesse di nuovo come una volta, come prima. Trassi di tasca il giornale, detti un'occhiata alla pagina d'apertura, ma passai subito a quella sportiva. Cercavo di concentrare tutta la mia attenzione sulla cronaca della partita Juventus-Bologna, conclusasi a Torino, appunto, come avevo udito gridare da Cenzo, con la clamorosa sconfitta del Bologna. Inutilmente. La gioia di mio padre, pensavo, era quella del bambino cacciato fuori di classe, il quale dal corridoio deserto dove fu esiliato a espiare una colpa non commessa, ad un tratto, insperatamente, si veda riaccolto in aula, fra i cari compagni, non soltanto perdonato, ma riconosciuto incolpevole e pienamente riabilitato. Ebbene, non era giusto, in fondo, che mio padre gioisse come quel bambino? Io no, non potevo. Il senso di solitudine che mi aveva sempre accompagnato in quei due ultimi mesi diventava semmai proprio adesso ancora più atroce, totale e definitivo. Ma con questo? Che cosa volevo? Che cosa pretendevo io? Levai il capo. L'Elisa indugiava attorno alla tavola a raccogliere piatti e posate sporche. Lunghi raggi di un sole già pomeridiano trafiggevano la penombra della stanza. Venivano dal salotto attiguo che ne traboccava. Fra poco, subito dopo pranzo, mio padre si sarebbe ritirato di là a dormire sdraiato sul divano di pelle. Era già come se lo vedessi, anzi, separato, là, chiuso, protetto, come dentro a un roseo bozzolo luminoso. Dormiva avvolto nella sua mantella, col viso ingenuo offerto alla luce. Tornai a chinare il viso sul giornale. Ed ecco, in fondo alla pagina di sinistra, di riscontro a quella sportiva, gli occhi mi caddero su un titolo di media grandezza. Diceva: «Noto professionista ferrarese annegato nelle acque del Po presso Ponte Lagoscuro». Per qualche secondo, credo, il cuore mi si fermò. Eppure non avevo capito bene, ancora non mi ero reso ben conto. Respirai profondamente. E adesso capivo, sì, già prima che cominciassi a leggere il mezzo colonnino sotto il titolo, il quale non parlava affatto di suicidio, s'intende, ma, secondo lo stile dei tempi, soltanto di disgrazia. A nessuno era lecito sopprimersi in quegli anni, nemmeno ai vecchi disonorati e senza più alcuna ragione di restare al mondo. Non finii di leggerlo, comunque. Abbassai le palpebre. Il battito del cuore ridiventava a poco regolare. Aspettai che l'Elisa chiudesse dietro di sé la porta di cucina e poi, quietamente, ma subito, «È morto il dottor Fadigati», dissi. Thank you.